A bordo campo di Dario Ricci. Si avvicina l'inverno, si avvicina la neve e anche io qui a bordo campo mi sto preparando. Beh, non, assolutamente non sono uno sciatore provetto, anzi confesso che qualche giorno fa il mio amico alpinista Daniele Nardi mi ha portato a fare una ferrata sulle Tofane, tanto per parlare di montagna, e insomma il cuore batteva forte a vedere il mondo da lassù. Però insomma quest'anno voglio lanciarmi nello sciare, voglio fare questa esperienza e mi sono dovuto trovare un maestro, chiaramente, perché sono veramente uno sciatore dai primi passi. Fortunatamente Mauro Bernardi, 36 anni, bergamasco, si è detto disponibile a spiegarmi qualcosa. Benvenuto Mauro a bordo campo. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco Mauro, mi raccomando, andiamoci piano perché io gli sci ai piedi non l'ho mai messi ancora, eh. Ma guarda, se vieni con me hai la fortuna di non doverli mettere neanche i piedi. Ah, oh, ecco, Mauro, insomma, sei entrato subito nel mezzo del discorso. Perché? Perché Mauro Bernardi è un istruttore di sci davvero particolare ed è l'unico istruttore di sci per quella che è la sua specialità. Spiegaci meglio, Mauro. Beh, io sono un ragazzo paraplegico, ragazzo, mi definisco ragazzo perché mi sento ancora giovane. 36 però... anni, dai, io sono 40, tutti e due ragazzi, siamo dai, giovani. Via. Siamo giovani. E all'età di 28 anni ho avuto un incidente stradale, quindi facevo l'autotrasportatore per un'azienda di Bergamo e ho avuto un incidente in strada, in A4, e ho avuto questo danno alla lesione alla colonna vertebrale, quindi ho avuto una lesione midollare che mi ha compromesso l'utilizzo delle gambe. In realtà è una paraplegia incompleta, però comunque le gambe non mi permettono più di fare quello che facevo prima, quindi sciare, correre, camminare liberamente. E allora da lì ho fatto un certo tipo di percorso e sono tornato a sciare. A sciare, però senza l'uso delle gambe, quindi seduto. Certo, con il monosci che è di fatto lo strumento principe, tra l'altro, di molti atleti paralimpici anche di altissimo livello che fanno vere e proprie evoluzioni e danno grande spettacolo anche in occasione delle gare, no? con questo strumento. Eh sì, è proprio così. La visibilità che è stata data soprattutto da questi atleti è proprio il fatto di dire che il limite più grosso è la nostra testa, è quello che non vogliamo fare. Perché se vogliamo possiamo, sicuramente ci sono dei vincoli, dei limiti, ma quelli sono anche i limiti, i vincoli umani che ha anche una persona normodotata, quindi non è preclusa la disabilità, non deve essere un escamotage per dire non ce la posso fare. Ecco, tra l'altro Mauro, la cosa che vale la pena spiegare è che anche nel tuo percorso riabilitativo c'è stato tanto sport, così come prima dell'incidente avevi queste passioni per tante discipline, lo sport ha fatto parte della tua riabilitazione. Sì, devo dire che proprio lo sport è stato il protagonista del rimettermi in gioco. È stato fondamentale. Già all'unità spinale, dove ero a Mozzo, vicino a Bergamo, si praticava la sportterapia. E con la sportterapia ci si avvicinava al tennis in carrozzina piuttosto che al basket, alla scherma, al tiro con l'arco. E lì ho proprio capito che lo sport mi avrebbe dato grandi soddisfazioni. Infatti, ho cominciato a giocare a tennis avendo risultati abbastanza deludenti perché non avevo mai giocato, però ho trovato proprio uno stimolo nello sport, la voglia di fare. Ho ripreso a nuotare, ho fatto il brevetto di sub grazie alla Mediterraneo, insomma ho fatto una serie di passaggi nello sport che mi hanno proprio aiutato a dire: Mauro, ma sei ancora abile? Dov'è la tua disabilità? È solo non uso delle gambe? Beh, è un limite che si può superare. E così sono tornato a sciare. Eh beh, insomma, già queste parole di Mauro Bernardi fanno venire i brividi e soprattutto ci ricordano un concetto importante, perché si può perdere l'uso delle gambe, degli arti, si possono avere menomazioni varie, ma lo sport ha la funzione chiave di migliorare la qualità della vita anche per i diversamente abili, così come per i normodotati. E questo è un punto chiave, per questo va fatto in qualsiasi condizione, in qualsiasi situazione, perché migliora la nostra quotidianità. Ora c'è un percorso, tornando alla storia di Mauro, davvero singolare, attraverso il quale è arrivato ad ottenere questo riconoscimento di istruttore di sci, o meglio di monosci. E per spiegarcelo abbiamo un altro ospite, direi la penna e la voce del mondo paralimpico italiano e non solo. Benvenuto a bordo campo, Claudio Arrigoni. È sempre un piacere. Ciao Dario, ciao a tutti. Caro Claudio, allora diciamo percorso davvero particolare quello che ha fatto Mauro Bernardi, perché? Perché di fatto in Italia non si può essere istruttori di monosci per un cavillo che tanto cavillo non è, no? Sì, non si poteva, ecco, possiamo usare in questo caso il passato, perché per essere maestro in monosci occorreva un certificato, che poi è un certificato che tutti usiamo quando dobbiamo fare sport, che è quello di sana e robusta costituzione. Solo che chiaramente per una persona con disabilità questo certificato era difficile da poter ottenere. Ora finalmente c'è stato questo decreto del fare al governo qualche mese fa. La Regione Lombardia, attraverso una mozione che ha fatto un'altra grande campionessa, la campionessa del mondo, Lara Magone, che oggi è consigliere regionale, ha accolto questa normativa del decreto che aboliva finalmente quel certificato, perché non possiamo pensare che una persona appunto come Mauro Bernardi o andiamo più in là come Alex Zanardi non abbiano una sana e robusta costituzione, magari nel concetto di una volta, ma oggi le cose lo sport paralimpico ci ha insegnato che sono diverse e quindi ora Mauro può finalmente insegnare. Ecco, la cosa estremamente interessante di questa parabola è che l'esperienza di Mauro Bernardi cambia un concetto, quel concetto di sana e robusta costituzione che noi ormai siamo abituati da decenni a mettere in calce ai nostri certificati per farci la nostra partitella di calcio, per farci la nostra notatina, di fatto si sta riempendo di nuovi contenuti, perché gli atleti paralimpici diversamente abili lo stanno modificando con l'uso della tecnologia, con l'uso, Claudio, della loro straordinaria forza d'animo. Sì, assolutamente, abbiamo di fronte dei campioni che sono dei campioni tout court, dei campioni a tutti gli effetti. È bello nella parabola di Mauro che lui, per dover insegnare, emigra, va bene, non va lontanissimo, diciamo, però va a San Marino, dove la Federsport Invernale di San Marino si occupa appunto anche di formare questi maestri che utilizzano il monosci, maestri con disabilità, e quindi ottiene questo riconoscimento. Poi per averlo per ottenerlo anche in Italia, per fare in modo che sia riconosciuto anche in Italia, io mi ero segnato un numero, perché abbiamo fatto il conto insieme a Mauro quando ho scritto un pezzo per la Gazzetta dello Sport, ci sono voluti 784 giorni, beh, non pochissimo. Beh, insomma, come si dice, una volata, uno è stato un attimo, giusto? Si presenta un foglio, si manda una mail e tutto a posto. Esatto. Allora, Mauro, quasi quasi viene la voglia di rimanere a San Marino, insomma. Tanto là c'è il Monte Titano, qualche discesa è garantita. Ah sì, dai, poi c'è anche la pista di Alacciaulla, adesso è una pista sintetica, quindi difatti venerdì sarò giù a San Marino e quindi proverò ancora a sciare sulla plastica e a far provare altri disabili, oltretutto sul sintetico, e quindi si può fare assolutamente anche a San Marino. Ma la cosa bella è che adesso questa strada, che io mi sento diciamo un po' il promotore, ma non voglio essere un eroe come tanti mi hanno disegnato, ma proprio il fatto di stimolare, e grazie anche all'informazione vostra piuttosto che gli articoli di Claudio, è proprio il fatto di spingere altri disabili a non aver paura e a mettersi in gioco, perché hanno delle conoscenze di vita vissute sulla loro esperienza di vita da poter trasmettere agli altri disabili, quelli che stanno ancora in casa, che credono che la disabilità sia un qualcosa che ormai è precluso tutto, e soprattutto il fatto di far capire alle famiglie che hanno i disabili in casa che comunque possono dare tanto, primo di tutti l'esempio e secondo proprio il loro vissuto agli altri disabili che si trovano magari in un momento di crisi dove non trovano degli appigli, e nello sport lo possono trovare. Uscite di casa, questo è l'appello che ci fa Mauro Bernardi, e lo rivolgo anche ai normodotati, Mauro, perché l'attività fisica, l'abbiamo detto, è centrale nella qualità della vita e nel nostro ruolo di cittadini. In un minuto, Mauro Bernardi, ormai sei istruttore, allora sinteticamente qualche consiglio utile per chi approccia appunto lo sci col monosci, quindi lo sci paralimpico. I concetti sono due. La prima cosa è acquisire l'equilibrio, quindi acquisire un po' di equilibrio a prescindere dal grado di disabilità, e soprattutto di contattarmi proprio, perché abbiamo sviluppato questa didattica cadute zero, zero cadute, e quindi so personalmente che le braccia sono fondamentali per noi e non possiamo permetterci il lusso di farci male, perché viene compromessa la nostra autonomia. E quindi proprio consiglio a tutti di capire cosa vuol dire questa didattica zero cadute, per poi sviluppare questa abilità nello sci e nella sciata proprio in pratica, e iniziare poi a essere autonomi. Dacci una mail allora, dove possiamo scriverti. Allora lascio la mia mail, che è mauro.bernardi@sciedipassione.com. Ok, mauro.bernardi@sciedipassione.com, questa è la mail a cui potete trovare Mauro Bernardi, che ringrazio anche Claudio Arrigoni. Claudio, tanto andiamo a risentirci presto a bordo campo, però a sciare con Mauro, per favore accompagnami, perché sennò io sto proprio, vado a rotoli, eh? Ma guarda, dobbiamo andare assolutamente insieme, perché poi lo sci paralimpico, lo sci su monosci, va bene anche per chi le gambe le può utilizzare benissimo, quindi è molto divertente, questo io l'ho provato, quindi è molto divertente, quindi appuntamento insieme. Allora, insomma, Mauro Bernardi il maestro, Claudio Arrigoni secondo sul podio, io staccatissimo, andate piano ragazzi, mi raccomando, aspettatemi almeno per il vin brûlé all'arrivo. Grazie a Mauro Bernardi e a Claudio Arrigoni per essere stati i nostri ospiti oggi a bordo campo. Vi aspetto in pista. A bordo campo. La vittoria è assicurata quando si taglia il traguardo, quando c'è la bandiera a scacchi. Vi assicurato, diciamo, che in questa categoria non c'è mai nulla, perché ci sono dei piloti veramente forti e agguerriti. È bello correre con questi piloti che sono veramente, veramente in gamba, corretti, e è stata una gara veramente stupenda. 17 anni di gare con 11 titoli italiani, 2 ori, 2 argenti e un bronzo europeo. Chissà quante volte Paolo Zantelli, 48 anni, della provincia di Parma, avrà gareggiato in carriera con il meteo che c'era domenica scorsa all'idroscalo di Milano. Una pioggia abbondante che rendeva l'acqua del laghetto dei milanesi e il cielo dello stesso colore, un grigio cupo, quasi un presagio per quello che sarebbe accaduto di lì a poco. L'incidente subito dopo la partenza del Gran Premio Città di Milano, il motoscafo di Zantelli che ha toccato un'altra imbarcazione e si è impennato in aria ribaltandosi. Zantelli è rimasto sott'acqua perdendo i sensi e, come sapete, immediati ma inutili i soccorsi, così come il trasporto via elicottero all'ospedale San Raffaele. Un incidente che ha riportato sulla ribalta della cronaca uno sport come la motonautica, che chiaramente presuppone, come tutti gli sport motoristici, un livello di rischio elevato, ma che è anche molto altro rispetto a questa tragedia. Ne parliamo oggi con quello che non esito a definire il più grande campione nella storia della Formula 1 della motonautica mondiale. 70 pole position in carriera, 62 vittorie, 10 titoli mondiali. Benvenuto a bordo campo a Guido Cappellini. Buongiorno a tutti. Guido, un palmarès che parla da solo. So che lei è ancora nel mondo della motonautica come consulente. Le chiedo subito un ricordo di Paolo Zantelli, che della Formula 2 era sicuramente uno dei campioni più conosciuti e anche apprezzati per il tipo di pilota e di uomo che era. Cosa c'è da dire di Zantelli? Un pilota corretto, un buon pilota, ma soprattutto una persona gentile. Non ho corso molto con lui, perché lui faceva Formula 2 e io appunto ero in Formula 1, però le faccio un esempio. Io 3 domeniche fa ero a Brindisi, dove lui stava facendo una prova di mondiale, era partito molto bene in testa, poi in una ripartenza ha perso 4 posizioni. Nonostante non corresse con le barche che hanno a che fare con me, nel senso che correva quasi per la concorrenza, a fine gara mi sono proprio arrabbiato e sono andato a dirgli: ma cosa hai combinato? Proprio perché ci tenevo, al di là del fatto che fosse italiano, era un ragazzo che comunque, ripeto, in primis l'educazione, la correttezza, cioè non dovrebbe succedere a nessuno, e purtroppo è successo a una persona che proprio non se meritava. Dal punto di vista della sicurezza, Cappellini, a che punto siamo? Siete su imbarcazioni sicure e c'è una differenza di standard qualitativi di sicurezza tra Formula 1 e Formula 2? No, diciamo che allora io ho iniziato l'attività quando La sicurezza veramente lasciava delle grosse lacune, come anche nelle moto, come anche nell'automobilismo. Oggi siamo a dei livelli molto buoni, molto buoni. E questo incidente mi ha lasciato veramente perplesso, perché soprattutto l'incidente dove non avevo una gran velocità, è successo poche centinaia di metri dopo la partenza, la barca poteva andare a 140 all'ora, 130, e ora che ha toccato l'acqua potevano anche essere 100 all'ora. Non sono giustificate le lesioni che ha avuto in questo incidente per il tipo di incidente, e quindi bisogna analizzare bene perché è successo questo. Mi sono fatto un'idea, non metto in dubbio che lui non avesse le cinture allacciate, ma ho il sospetto che lui possa essere slacciate un po' prima dell'impatto. Questa è un'idea che mi sono fatto, perché non riesco assolutamente a giustificare il fatto che abbia queste lesioni per un incidente così poco cruento. Di fatto queste imbarcazioni a che velocità raggiungono in Formula 2 ad esempio? Possono passare, arrivare vicino ai 200 all'ora. Formula 2 arriva vicino ai 200 all'ora, fanno dei looping in fondo al rettilineo a 200 all'ora, la barca si rovescia e esce senza un graffio. Questa è la norma. Nella gara 2 c'era stato un incidente con un looping, e se non fosse stato perché il motore aveva bevuto acqua potevano ripartire. Cioè, sono cose normalissime, e ripeto, veramente una cosa molto strana quella che è successo, perché l'unica ragione per cui ha avuto questi traumi potrebbe essere solo questa, non ne vedo altre. Il meteo può aver condizionato in qualche modo, c'era una pioggia abbondante, o anche in termini di visibilità? Assolutamente, perché se hanno dato la partenza le condizioni di visibilità erano buone, in più noi siamo abituati, cioè, essendo in acqua non è sicuramente due gocce d'acqua che ci spaventano, e dopo 100 metri dalla partenza non è che uno non vede dove va, no? Quindi non è un incidente dopo una curva che poteva non aver visto un concorrente. Escluderei a priori anche questa possibilità. Rimane solamente da capire bene adesso il perché è successo, perché noi, come dicevo, abbiamo delle barche dove facciamo dei looping di 360 gradi, e se va a vedere su YouTube cappellini.com può vedere il flip mio di 360 gradi dove atterro e riprendo la gara e oltretutto la vinco. Quindi sono barche resistentissime. La barca non si è fatta nulla, e questa è la cosa che più dà fastidio, perché bisogna trovare una ragione a quello che è successo. Io sono finito contro un muro a Bristol a 170 all'ora, contro un muro, e sono uscito vivo. Cioè, non è concepibile che in condizioni normali lui abbia avuto quei traumi che ha avuto. Quindi o si sono sganciate le cinture, o le ha sganciate un attimo prima, perché non è bello andare in acqua e stare legato in una barca, soprattutto se ti ribalti a testa in giù, e quindi cerchi sempre di uscire il prima possibile. Ma la differenza tra aspettare che finisca l'incidente, che finisca tutto, e sganciarsi un pochino prima può fare la differenza, e potrebbe essere la causa di tutto quello che è successo. Staremo a vedere appunto quali dinamiche ricostruiranno gli inquirenti. Le chiedo ancora, Guido, per quella che è la sua straordinaria esperienza, però immagino che ci siano degli ulteriori margini di miglioramento in termini di sicurezza per uno sport tanto spettacolare quanto rischioso, così come abbiamo detto tutti gli sport motoristici. Ecco, volendo individuare delle priorità, quali possono essere gli ulteriori passi avanti da fare, anche a partire da quest'ultima tragica esperienza? Allora, noi siamo abituati a, per avere licenza, a fare il turtle test, che è una prova di ribaltamento in piscina in una capsula, dove dimostri che sei in grado di sganciare il cupolino, togliere il volante, sganciare le cinture, uscire dalla barca, tutto questo sotto sopra in acqua che non è il tuo ambiente naturale. Per avere la licenza devi ottenere questa certificazione. La fai una volta però, non lo so, potrebbe anche essere un allenamento da fare più spesso, in maniera da far sì che il pilota abbia più familiarità con l'acqua e non abbia il terrore di finire in acqua. Io per sopperire a questa problematica sono diventato sub, quindi facevo anche molta attività in acqua, appunto come subacqueo, e questo mi ha aiutato in tanti incidenti a cavarmela senza farsi prendere dal panico, perché il panico è il peggior nemico in quelle situazioni. Può anche essere utile un training specifico per piloti che, abbiamo visto, Zantelli era 48enne e spesso, come accade appunto nel mondo dei motori, sono anche un po' più avanti con gli anni rispetto ad atleti di altre discipline? Ma guardi, io ritengo una cosa, che la motonautica è uno sport dove ci vuole molta esperienza. L'incidente di Zantelli anche lì mi lascia stupito, perché comunque lui non era il primo incidente che faceva, e comunque è sempre uscito senza... Sì, no, ha avuto anche incidenti dove ha avuto qualche lesione, ma mai di questo genere. Non lo so, non si sa mai cosa scatta nella testa di un pilota quando succede una cosa del genere. Il discorso dell'età, questo gli posso garantire, che io ero in attività fino all'anno scorso, ma non più in Formula 1, perché dopo il 10° titolo mondiale di Formula 1 ho deciso di uscire in bellezza e mi sono dedicato all'offshore. Però abbiamo delle visite mediche severissime, abbiamo dei test molto molto difficili da passare, difatti non è facile passare questi test e queste visite dopo 50 anni. Zantelli era un pilota che aveva 48 anni, ma gliene potevi dare 38, non aveva, era una persona molto molto sportiva, non vedo proprio il motivo per cui lui avesse avuto problemi e la conseguenza sia stata la sua fisicità, piuttosto quello che ho detto prima. Guido Cappellini, leggenda della motonautica italiana e mondiale, grazie per essere stato oggi nostro ospite qui a Bordo Campo. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito www.radio24.it, scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo. L'appuntamento è, come sempre, domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.